Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Fiori rosa, fiori di pesco. Fiori, frutti, radici, foglie, arriva la stagione di tisane, infusi, decotti, macerati, per conciliare il sonno, per digerire, per depurarsi, per ritrovare la calma o semplicemente per il piacere di dedicarsi una coccola. Per molti di noi la tisana è un appuntamento quotidiano, un piccolo rito di benessere da assaporare da soli oppure da condividere con le persone che amiamo. Vi pare? Non vi pare? 800 24 00 24, potete scriverci al 349 238 6666, intanto pronti a prendere appunti perché in studio qua con me è tornato a trovarci il dottor Luca Boledo, naturopata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E aggiungo anche esperto del nostro Daily Lab, un appuntamento quotidiano con i nostri esperti che ci aiutano a vivere meglio la nostra quotidianità e che quindi vi invito a consultare ogni giorno. Dottora Boledo, un piccolo rito di benessere. La tisana è esattamente un piccolo rito di benessere. Il solo fatto di prepararci una tisana è benefico, ci fa bene, ci fa fermare per un momento dalle attività quotidiane, ci fa staccare, ci mettiamo lì. Pensiamo anche magari a alcune soluzioni pratiche. In ufficio ci si può preparare una tisana, si porta un piccolo bollitore elettrico, quelli molto piccoli, pratici, invece dell'ennesimo caffè, una bella tisana da gustare con i colleghi. Sa che a me hanno regalato una tazzina che si attacca al computer. Oh, che bella! E si riscalda. Bene, magnifico. Un rito che si può ripetere in qualunque circostanza della giornata. Senta, lei quante tisane si fa in un giorno? Me ne faccio di solito una o due a seconda del periodo, perché ci sono delle tisane che possono essere più utili in alcuni momenti della vita, della stagione, o magari quando uno è un pochino più nervosetto, allora è il caso di ricorrere con più generosità a qualche erba utile. Anche perché noi nei confronti delle erbe abbiamo un atteggiamento molto positivo. Le erbe vengono dalla natura, la natura ci fa bene e quindi è piacevole prepararsi una tisana, anche perché dentro di noi sappiamo che sorseggiandola qualche cosa di buono capita. È il potere delle erbe. È il potere delle erbe, senz'altro, perché le erbe hanno delle molecole attive, non è suggestione, capiamoci bene. La maggior parte, ma comunque molti farmaci arrivano dal mondo vegetale. Assolutamente. Pensate alla comunissima aspirina, chi non l'ha mai presa, è stata scoperta nella corteccia del salice, poi ormai si fa da 100 anni per via chimica, l'acido acetil salicilico, e arriva dal mondo vegetale. Quindi le piante hanno un'attività sull'organismo. E in più c'è, come dire, questo effetto benefico di cui dicevamo prima, che è un modo anche di rispetto alla pastiglia, la tisana, come dire, ci fa anche fermare un attimo. Più. Questo è in qualche modo, fra virgolette, terapeutico. Assolutamente. Dottora Boledo, una tisana è una preparazione estremamente semplice: acque, piante, e più precisamente della pianta, quella che in erboristeria viene chiamata droga. Sì, non spaventiamoci, però. La droga, in questo senso, non è una parola che ci piace poco. La droga è quella parte della pianta che viene utilizzata perché ha le proprietà salutistiche della nostra tisana. Può essere le foglie, possono essere le radici, il rizoma, che è un fusto sotterraneo, i frutti, le cortecce. Ogni pianta ha una parte che è quella che viene utilizzata a scopo erboristico, quella che viene chiamata droga. Si aggiunge l'acqua. E poi però noi possiamo, con questi due ingredienti, la droga e l'acqua, creare delle infusi, delle tisane oppure dei macerati. Si fa presto a dire tisane, infatti. Si fa presto. Ci sono tre preparazioni base. Quella che comunemente chiamiamo tisana di solito è un'infusione, cioè un infuso, quella che si prepara scaldando l'acqua sul pentolino, spegnendo, aggiungendo le nostre erbe acquistate in erboristeria o in farmacie con reparto naturale, si lasciano in infusione per qualche minuto a seconda delle erbe, più o meno, si filtra, si schiaccia un po' col cucchiaino per far passare bene appunto l'acqua che ha fatto questa infusione, e poi si consuma. Questa è l'infuso, è una preparazione piuttosto rapida, con tempi di permanenza in acqua delle erbe piuttosto brevi, e si usa per le parti un po' più delicate, per esempio i fiori o le foglie. Viceversa, il decotto cotto è una preparazione in cui vengono utilizzati, dice la parola stessa, la decozione, esatto, si usa per le parti un po' più dure, quindi le radici, i frutti secchi delle piante, e in questo caso vengono messe in una preparazione molto diversa, perché, o meglio, in parte diversa, vengono messe nell'acqua fredda, quindi senza ancora accendere il gas, si accende il gas, si fa bollire e si fa bollire per diversi minuti. Proprio per prendere... per estrarre, perché il procedimento questo è estrarre questi principi attivi delle piante, quindi a quel punto poi si fa riposare anche per molti minuti, si filtra e, voilà, e si consuma. E poi il macerato? Il macerato è una preparazione ancora più inusuale, ma sì, è una tisana... Però è semplice. È semplicissima. Io lo suggerisco spesso per la malva, che è una pianta che mi piace molto. È una tisana che si prepara da sola, io lo dico. Perché si usa senza gas, senza accendere il fuoco. Si prepara una tazza d'acqua a temperatura ambiente, ad esempio la sera, si mette un cucchiaio di tisana all'interno, di erba in taglio tisana all'interno dell'acqua, si lascia lì tutta la notte per 6-8 ore, alla mattina è pronta per intanto il consumo. Intanto che noi dormiamo, lavora il macerato, conto... si produce. Esatto. 800 24 00 24. Parliamo di erbe, parliamo di tisane, cerchiamo di capire come queste preparazioni possono aggiungere benessere alla nostra quotidianità. È un piccolo rito, ma dobbiamo imparare a scegliere anche le erbe giuste. Ci sono tisane che possono risolvere o prevenire diversi problemi. Ne parleremo nel corso della trasmissione, quindi se volete bervi una tisana con noi, 800 24 00 24. Dottor Avoledo, ogni stagione ha le sue erbe e anche le sue tisane. In estate vanno molto quelle drenanti che preparano un po' alla prova costume. Adesso la stagione sta cambiando nella hit parade delle tisane. Beh, che cosa sta succedendo? Siamo appena entrati nell'autunno, ancora fa caldo, ma chissà fin quando, e l'organismo, come dire, si prepara ad affrontare un periodo in cui le temperature scendono, magari anche in maniera radicale e forte. Quindi si può pensare a una tisana per il benessere delle vie respiratorie, mal di gola, tosse, raffreddore, e quindi si possono usare delle erbe specifiche. Ve ne suggerisco una che può essere molto interessante, con un tris di erbe, dall'attività antinfettiva, balsamica, espettorante e anche antispasmodica delle vie respiratorie, come per esempio una tisana in parti uguali di timo, verbasco. È una pianta non sicuramente molto nota, ma molto interessante per le proprietà antinfiammatorie ed emollienti sull'apparato respiratorio, e lavanda, questa la conoscono tutti, che è anch'essa antinfettiva e antispastica delle vie respiratorie. E dà anche un buon sapore alla tisana. Bravo, perché la tisana, a volte ci sono delle erbe che sono un po' molto amarone, amare. E allora la domanda sorge spontanea: aggiungo miele? Per quello che mi riguarda, in linea di massima, no. Meglio magari aggiungere delle erbe correttrici del sapore. Quali sono le erbe dolci correttrici dei sapori che possiamo aggiungere ad una tisana che ci fa bene ma è un po' amara? Anche qua distinguerei quelle, diciamo, un poco coriacee, che si mettono negli infusi e quindi vanno cotti poco, da quelle un po' più dure. Per esempio i fiori d'arancio o la menta correggono il sapore per gli infusi, quindi per le preparazioni da tenere poco in infusione, mentre la liquirizia, le radici di liquirizia che sono coriacee, si possono usare per i decotti e impartiscono un buon sapore alla nostra tisana. 800 24 00 24 se volete intervenire con noi. Il macerato si può scaldare al mattino o si beve a temperatura ambiente, ci scrive Elisa? Allora, non c'è bisogno di scaldarlo. Se però d'inverno uno magari la sensazione è quella del freddo e non ha tanta voglia di bere delle cose a temperatura ambiente, si può scaldare con attenzione, perché non è una procedura, come dire, che ci garantisce che si conservino bene i principi attivi. Allora il modo migliore per scaldarlo sarebbe a bagnomaria. E diventa un po' lunghetta. Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Vi ringrazio per avermi. E il fiorellino per antonomasia della buonanotte è la camomilla. Noi la usiamo da sempre così, usiamo magari il tiglio per aiutare il sonno dei bambini e poi il tarassaco per depurarci, la malva per regolare l'intestino. Siamo abituati a usare le erbe nel modo e per la funzione per la quale ce l'hanno insegnata, ma noi sappiamo che le erbe hanno altre magari virtù, altre proprietà che vogliamo farvi scoprire qua, essere benessere insieme al dottor Ravoledo. Insomma, l'altro lato della camomilla, dottor Ravoledo? La camomilla ha un lungo uso tradizionale, soprattutto come blando sedativo per favorire il sonno, per carità, questo lavoro lo fa. Si è visto però che forse la sua efficacia maggiore la si ha in un altro ambito, che è quello della, e anche qua molto interessante in questa stagione, i cambi di stagione si accentuano i bruciori di stomaco, l'acidità. La camomilla è utile in tutte le problematiche di stomaco, in parte anche alcune di intestino, quindi gastrite, bruciori. Si è visto che alcuni dei suoi componenti, come l'alfa bisabololo, dei nomi un po' strani, alcuni flavonoidi come la pigenina, hanno delle proprietà antinfiammatorie e antispastiche del tubo digerente, quindi aiutano a proteggere le mucose. Hai capito, la camomilla? E qualcuno infatti si fa la camomilla per digerire quando non il canarino, anche il canarino, ma la camomilla appunto ha queste proprietà molto ben individuate da alcune ricerche scientifiche, quindi benissimo prima di andare a dormire per rilassare, ma non trascuratela anche quando avete dei disturbi, anche ai cambi di stagione. In questo caso la prenderei con più decisione, magari una, due o tre volte al giorno. Abbiamo tanti messaggi al 349-238-6666, come sempre potete seguirci su Facebook o su Twitter, tra poco spazio naturalmente alle vostre telefonate. All'800 24 0024 cercate una tisana, il dottor Ravoledo vi suggerisce la preparazione corretta. Ma un'ascoltatrice ci scrive: alcune tisane in commercio miscelano radici, bacche e fiori, quindi avrebbero tempi di preparazione differenti? Molto intelligente questa domanda. Non l'ho fatta io. Sì, bisogna stare attenti, a dire il vero, a non mischiare delle parti troppo diverse, perché i fiori richiedono dei tempi brevi e le radici lunghi, quindi poi alla fine la tisana, se mischiamo queste erbe diverse, ha un tempo unico. Rischiamo che in alcuni casi teniamo su troppo, in altri non è sufficiente per estrarre i principi attivi. Non mischiamo parti di troppo coriacee con quelle troppo morbide. Tisana per attivare il microcircolo? La tisana per attivare il microcircolo sono quelle che utilizzano quelle piante che hanno un'attività, per esempio, flebotonica, quindi si usano delle piante come la centella, la vite rossa, quindi una serie di piante di cui però abbiamo parlato soprattutto d'estate, quel momento in cui la circolazione può dare fastidio. Certo. E quindi ci sono queste piante ad attività flebotonica molto interessante, centella, vite rossa. Guida all'acquisto delle erbe, ci chiede Carlo da Firenze, meglio comprare piccole quantità di erbe, perché naturalmente le piace questa domanda. Le domande, gli ascoltatori di Essere Benessere sono davvero, hanno una marcia in più, sono domande così molto intelligenti. Di solito noi compriamo le erbe in erboristeria, possiamo, e noi parliamo di queste erbe, di erbe che acquistiamo erboristeria, magari al supermercato, in farmacia, e che utilizziamo per preparare tisane, infusi, decotte, quindi un'autocura, sì, un'autopreparazione. Quante ne compriamo? Meglio comprarne poche? Sono da preferire le tisane con un'erba sola, o vale sempre di più invece il mix di erbe per approfittare di tutte le virtù delle droghe, come le abbiamo definite erboristici? In termini erboristici è meglio non comprare mezzo chilo di tisana, perché non si conservano bene, quindi vanno conservate in sacchetti particolari, quelli che danno in erboristeria vanno benissimo, al massimo per 3-6 mesi, e meno si conservano meglio è. Ben chiuse, però non ermetiche, quindi non contenitori ermetici, il sacchetto quello apposta va benissimo, e prima si consumano meglio, quindi io suggerisco di prendere un etto di tisana, non di più, soprattutto se non si consuma ogni giorno. L'altra domanda com'era? No, meglio l'erba sola o l'erba miscela, più erbe insieme? Se si è un po' esperti, quindi si legge qualche libro, si va su internet, si ascolta Essere e Benessere, si può comporre una tisana con delle erbe che hanno azioni sinergiche, quelle che dicevamo prima per le vie respiratorie, e alcune erbe, per esempio anche quelle anti-ansia, funzionano benissimo in sinergia. Non mischiatene troppe però. Allora, siete esperte, avete creato la vostra tisana? 800 24 00 24. Dateci la vostra ricetta e il dottor Ravoledo ci spiegherà se la combinazione è corretta, oppure se si potrebbe magari fare un po' meglio, giusto? Sì. 800 24 00 24. Ciao. Oh, ciao. Come mai qui? Ti senti poco bene? No, sto benissimo. E cercavo uno shampoo. Alla camomilla qui. Come mai la camomilla? Hai il cappello agitato? E proprio così, le erbe, la camomilla in particolare, non finiscono solo in tazza, ma possono trasformarsi anche in tonici e quindi in cosmetici naturali. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Antonino Di Pietro, direttore del servizio di dermatologia dell'ospedale di Inzago. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Professore, tiglio, camomilla, malva, rosmarino, timo, noi li usiamo per mettere in tazza, ma in realtà potremmo anche utilizzarli per magari diventare più belli, certo, o in sostituzione di alcuni cosmetici, oppure magari quando siamo in viaggio, andiamo nella casa del mare, ci siamo dimenticati qualche cosa, potremmo fare un cosmetico naturale. Certo, sono un toccasana naturale per la nostra pelle. Del resto i nostri nonni utilizzavano moltissimo le erbe e prodotti naturali per mantenere bella la pelle. Prima si parlava di camomilla. La camomilla è importantissima perché ha questa azione calmante, astringente sui vasi capillari, e quando ci sono degli arrossamenti un impacco di camomilla diventa utilissimo, come in caso di occhiaie o borse. Fare degli impacchi di camomilla fresca, appena tiepida, può essere molto utile, soprattutto al mattino, per sgonfiare gli occhi. Come anche il tè, il tè è altrettanto importante perché aiuta, risciacquando il cuoio capelluto, a mantenere la lucentezza dei capelli o a potenziare il colore naturale, come può essere utile anche per le scottature, oppure per eliminare una cosa piuttosto sgradevole che è la puzza dei piedi. Veramente, ecco, mettete i piedi nel tè? Pediluvio col tè è ottimo perché il tè è ricco di tannino. Il tannino è una sostanza antibatterica, antifungigna, e quindi utile per chi, portando magari scarpe chiuse, i ragazzi soprattutto, per ore e ore durante il giorno, hanno poi dopo questi effluvi. Quindi offrite una tazza di tè ai vostri piedi. Ai vostri piedi. Dunque il timo anche, si parlava anche del timo. L'infuso di timo può essere molto utile per chi ha problemi di capelli grassi o con forfora. In questo caso bisognerebbe bagnare i capelli con un infuso di timo prima dello shampoo, quindi anziché utilizzare l'acqua della doccia, preparare una bacinella con un infuso di timo e bagnare, sciacquare i capelli, lasciarli così per un paio di minuti in modo che possa essere assorbiti i principi attivi del timo, e poi dopo fare uno shampoo. Se poi si riesce a mettere qualche goccia di tintura di timo nello shampoo, prediligendo sempre degli shampoo molto poco schiumogeni, quindi poco aggressivi, e allora raggiungiamo veramente l'ottimo. Fantastico, ci ha sistemato praticamente dalla testa ai piedi, o meglio, prima ha iniziato dai piedi con il tè, il timo per i capelli grassi, straordinario. Certo, ma poi adesso si parla di tutto, ma restando nel naturale, vista la mia posizione sul botolino, alla fine ritorniamo sempre lì. La banana ad esempio è ricca di magnesio, no? E potassio. Il magnesio ha un'ottima proprietà calmante sui muscoli, soprattutto sui piccoli muscoli che possono esserci nel sottocute. Un concentrato di banana, un bel frullatone di banana, e poi appiccicato sulla pelle per 10 minuti, un quarto d'ora, distende. Lanciamo più banane e meno botulino? Sì, ma così è un po' quasi uno scherzo. Però ha un fondo di verità, perché la banana è ricca di magnesio, di potassio, ed è stata utilizzata a lungo nel passato, nei secoli scorsi, come decongestionante o anche come rilassante per i muscoli delle gambe, ad esempio quando ci fanno male le gambe, i piedi gonfi, i polpacci che ci fanno male. Il concentrato di banana è un ottimo toccasana. Quindi si schiaccia una banana, dottor Avoledo? E questa specie di poltiglia diventa una maschera e distende anche magari le rughe. professor Di Pietro. Perché è un po' rilassante, quindi allo stesso modo come potrebbe fare in maniera molto più potente, logicamente è una tossina iniettata, senza arrivare a quei livelli, però un rilassamento della cute può esserci, e quindi questo potrebbe essere utile quando si vuole distendere un po' più la cute rilassandola, quando siamo molto tesi, tirati. Grazie professor Di Pietro per essere stato con noi. Nulla, anzi, è sempre un piacere. Grazie. Buona giornata. Buona giornata, e andiamo da Nicoletta che ci chiama da Latina. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, io chiamo per via di mia madre. Sì. Perché lei raccoglie di tutto, li raccoglie lei, fiori di tiglio, di arancio, la malva, il finocchio selvatico, la menta, no? E li fa seccare, li mette sul tavolo, li fa seccare e poi li conserva in barattoli di vetro. E ogni volta si fa le sue tisane e mi dice: vuoi una tisana? Vuoi una e lei tisana? Nicoletta cosa dice? No, io a volte sì, a volte no, perché non amo moltissimo le tisane, però mi chiedevo se era una procedura esatta quella che fa mia madre, cioè farli seccare lei. Grazie Nicoletta, bella domanda, professor di dottora Voleda. Ma sì, se la signora è sufficientemente competente, sicuramente lo è da due o tre cose che ho sentito che ha raccontato la figlia, ma benissimo che faccia queste cose, molto bello raccogliere, molto bello prepararle, in questo modo va bene. Poi di solito la tisana si offre alle persone di cui vogliamo occuparci. Esatto, e addirittura una tisana non solo preparata, ma raccolti gli ingredienti proprio. Ma cosa c'è di più? È piena d'amore una tisana. Prima di andare ai mercati, le tisane in bustina hanno un po' di efficacia o sono solo un piacere per il palato? Ci scrive da Torino Donatella. Molto giusto, hanno un po' di efficacia, ne hanno un po' meno, sono erbe molto sminuzzate, spesso tante volte anche residui di lavorazione, quindi per quello che mi riguarda meglio le erbe sfuse, quella appunto in taglio tisana che si compra in erboristeria. Se ne miscelano magari non solo un'erba, più erbe, ma il dottor Avoledo ci teneva a sottolineare, a precisare, non troppe, non tante, perché? Sì, non tanto perché si crede, qualcuno lo crede, che ci possono essere delle interazioni, che per carità ci possono anche essere, e più che altro perché si prende di solito un cucchiaino o al massimo un cucchiaio di queste miscele. E si finisce, si corre il rischio che se si mettono sei erbe, sette erbe addirittura in alcuni casi, c'è troppa poca quantità interessante di quell'erba lì, quindi della droga, per essere efficace. Io suggerisco al massimo cinque erbe, sì? Meglio ancora il numero che mi piace, che è il numero perfetto, tre. Esattamente tre. Essere e benessere. Oggi vi preparo una tisana, gli ingredienti ce li suggerisce il dottor Avoledo. Prepararsi una tisana è un rito quotidiano di benessere. Solitamente quando offriamo una tisana lo offriamo ad una persona a cui vogliamo bene, che ci sta a cuore. In linea con noi abbiamo Vittoria che ci chiama da Milano, ci ha aspettato da prima dei mercati. Buongiorno. Buongiorno a voi. Vittoria. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora io vorrei fare l'apologia dello zenzero. Sì, vada Vittoria. La radice di zenzero fresca è veramente un toccasana. L'ho sperimentato personalmente, sia come potente digestivo che come sostanza che rilascia nell'acqua bollente delle proprietà antinfiammatorie, perfette per il raffreddore, per il mal di gola, al di là del fatto che, ripeto, è un ottimo digestivo. Sì. Ultimamente, data l'età, purtroppo, sono 10 anni che sono in menopausa, ho dei dolori piuttosto forti alle articolazioni delle ginocchia, delle mani, dei piedi. Sì. E visto che sono molto fiduciosa nello zenzero, ho provato a mettere queste fettine sottili all'interno di una garza ricco di olio di mandorle, sì. E ne ho moltissime, forse ho esagerato, però quella cosa si è rivelata positiva, perché in effetti questo olio che mi si è ricavato da questa operazione, talmente profumato e ricco di queste sostanze medicamentose, che ha, Vittoria, la sentiamo un po' malino, ma abbiamo capito che praticamente l'uso dello zenzero come digestivo Vittoria ha ragionissima e ha preparato questo olio. Un oleolito in questo caso non è certo una tisana, una preparazione anche questa di erboristica della medicina popolare, ma ha ragione sullo zenzero, ha ragione su tutto quello che lei ha toccato con mano, in alcuni casi è confermato dal lungo uso tradizionale, in altri da alcune ricerche scientifiche. Lo zenzero è innanzitutto un formidabile rimedio per lo stomaco, antinausea anche, quindi anche contro la nausea da viaggio o la nausea delle gravidanze in alcuni casi si può utilizzare, è un antimicrobico e quindi viene utilizzato anche a scopo disinfettante, che diceva, ed è un antinfiammatorio, antidolorifico, anche nel mal di testa si potrebbe provare lo zenzero. Quindi zenzero, zenzero, zenzero, sposiamo l'apologia di Vittoria. E noi vogliamo leggere anche la ricetta che ci manda Cristiana: decotto di zenzero fresco, foglie fresche di alloro e buccia di limone naturale. Cristiana vuole un commento, e a proposito di zenzero, un toccasana, immagino che lo usi per lo stomaco, va benissimo, brava Cristiana. Vera, scritto da Facebook: melissa, passiflora, camomilla, liquirizia, semi di finocchio e semi di anice, sono 6 erbe, lei ha detto meglio 3 o 5, però Vera ci assicura che è buonissima, aromatica e rilassante. Promossa? Promossa, studiando un po' di più l'anno prossimo, nel senso che promossa senz'altro sì, le erbe sono molto utili, appunto 6 sono un pochino tante, ma squadra che vince non si cambia, se funziona lo usi bene. E poi ha mischiato un po' di erbe appunto tenere con la liquirizia, che è un po' coriacea, però è chiaro che quindi funziona. Oggi impariamo erbe con erbe, tenerezza con tenerezza e invece radici e durezza con durezza, perché deve bollire un pochino di più. 800 24 00 24, vogliamo rispondere alle vostre telefonate, avete un disturbo, volete sorseggiarvi una tisana e capire qual è l'erba o le erbe che fanno al vostro caso, chiamateci come fa Sergio da Latina. Buongiorno Sergio, benvenuto. Buongiorno. Tisaniamo. Dunque, io diciamo che come una gran parte della popolazione italiana soffro di reflusso gastroesofageo. Allora, il mio problema è quello che devo mangiare poco e spesso, e particolarmente la sera devo stare molto leggero. Nonostante questo, io molte volte la sera prima di andare a dormire sono costretto a prendere una tisana per andare a letto il più leggero possibile. Sì. E diciamo che ne ho provate diverse. Ho iniziato con la classica camomilla. Che diciamo non ha fatto un grande effetto. Sì. Poi sono passato al finocchio, ai semi di finocchio, ho usato anche l'anice, sì. Ma quella che ho notato, e anche per caso l'ho potuto notare, perché mi trovavo in vacanza, sì. E ero seduto in un bar, ho chiesto la possibilità di poter avere una tisana, mi hanno portato una serie di bustine con varie... Sì, che cosa, quale ha scelto lei? Così? E a un certo punto ho scelto la verbena. Sì. Ora, cosa che non mi succedeva più da anni, veramente, sì. Mi sembrava di essere tornato indietro proprio di quando ero ragazzo. La pianta perché, della giovinezza. No, diciamo, perché la mattina mi sono svegliato e avevo... appetito, avevo fame. Oh, cosa, magnifica cosa verbena. Chiediamo Sergio, stia lì, chiediamo al dottor Avolendo. Mi piace molto quello che dice Sergio, in particolare il messaggio che sta mandando implicito, ovvero le erbe che ha provato prima della verbena, che funziona e siamo contenti per lui, sono erbe che sono efficaci in circostanze come quelle descritte da Sergio, di problemi digestivi, di stomaco, digestione lenta, reflusso. Però a Sergio non sono andate tanto bene per Sergio. Quindi... prendiamoci il tempo di testare la risposta che le erbe hanno su di noi, anche se le indicazioni, anche quelle scientifiche, sono giuste, ognuno di noi è diverso. Quindi la stessa camomilla di cui abbiamo parlato prima, ad alcuni fa un effetto eccitante. Ma lei che tisana avrebbe suggerito, tanto per provare, per chi soffre di reflusso? Allora, una tisana per chi soffre di reflusso, appunto, si può considerare la malva, come dicevamo prima, la melissa, meravigliosa per tutti i disturbi che prendono l'apparato digerente e anche lo stomaco, e in particolare se c'è anche una componente di tipo nervoso, quindi le somatizzazioni. Benissimo i semicaldi, quando si diceva anice, cumino, semi di finocchio, che sono carminativi, quindi sgonfiano. respirano anche dall'aria. Sono tutte piante molto molto utili da considerare in queste situazioni. Ma attenzione, stiamo parlando di erbe, di piante che sono assolutamente validate non solo dalla tradizione popolare ma anche dalla ricerca. Noi siamo ben disposti nei confronti delle erbe, sicuramente lo siamo più delle erbe che rispetto ai farmaci, ma a proposito, attenzione, ci sono delle interazioni che vanno conosciute. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Fabio Firenzuoli, direttore del Centro di Medicina Integrativa all'ospedale di Careggi di Firenze. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, sono contenta. Grazie. Allora, stiamo parlando di erbe, tra virgolette, posso mettere, molto tranquille, molto conosciute, ma non basta, bisogna conoscere qualche cosa di più, soprattutto è quello che devono fare le persone che stanno seguendo magari delle terapie. Essere e benessere. Professor Firenzuoli, che cosa dobbiamo sapere se ci piace usare erbe per preparare tisane o altro? Diciamo subito che quando le piante si utilizzano in forma di tisana raramente hanno effetti collaterali, perché tutto sommato sono comunque preparazioni domestiche poco concentrate e nessuno di noi si sognerebbe mai di utilizzare una pianta che di per sé sia tossica, che ne so, la prima che viene a mente l'oleandro, no? Sì. L'abbiamo magari in giardino, ma nessuno ci farà mai un decotto. Una tisana. Esatto, perché tutti sappiamo che non va avvicinato da questo punto di vista. Però bisogna sapere invece che le piante utilizzate prevalentemente in forma di estratti, come si trovano anche negli integratori di libera vendita, quando assunte insieme a terapie farmacologiche, soprattutto terapie di uso cronico, sì, ecco, allora una pianta anche di per sé tranquilla può diventare rischiosa. Esempio, sì, una pianta che è molto utilizzata, molto efficace come antidepressivo, che è l'iperico, che si trova sia come medicinale sia come integratore, in realtà, e ha scarsi effetti collaterali, in realtà può annullare, esattamente annullare, l'effetto anticoncezionale della pillola, oppure può annullare sì, l'effetto di farmaci importanti come farmaci antirigetto. Invece il succo del mirtillo, che magari il mirtillo rosso viene utilizzato prevalentemente nella prevenzione delle malattie infiammatorie vie urinarie, ecco, se assunto per un periodo continuativo, quindi di diverse settimane o mesi, da pazienti che stiano facendo farmaci per la coagulazione, no? Cioè sì, anticoagulanti tipo il Warfarin, sì, ecco, il mirtillo può amplificare l'effetto anticoagulante di questi farmaci e quindi esporre il paziente a dei rischi. Quindi una pianta tranquilla insieme a un farmaco magari può scatenare dei problemi. Così la licorizia. Mm-hmm. La licorizia è anche quella che si compra al bar, che è in forma di succo concentrato, no? Che cubetti, che è molto anche gradevoli, anche molto utili. E le mentine trova... anche, poi c'è il bastoncino. Bravo. Che sì, di solito mordicchiano le persone che vogliono smettere di fumare. Sì, no? Lì problemi non ne dà in realtà, però la licorizia la si può trovare anche in prodotti di tipo erboristico a scopo lassativo. Sì. Ecco, quando assunta per periodi molto lunghi, anche piccole dosi, può interferire per esempio con cortisonici, quindi un paziente stia facendo del cortisone per sì, una malattia cronica, ecco, può andare incontro, se assunto insieme all'icorizia, a degli aggravi anche abbassamenti di potassio. Per cui bisogna stare molto attenti, ecco, quando si fanno terapie, soprattutto continuative, ad aggiungere qualcosa di naturale, perché si pensano che comunque non fa male. Grazie professor Firenzuoli per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie, altrettanto a lei, grazie. Chi c'è qua? Sorpresa. Bello. Ta-tan. Facciamo la canzoncina. Dai. A me non piace per niente la liquirizia. Che Nicoletta, cosa? È una cosa tanto grave? No, assolutamente. Mm. Non è obbligatorio prendere liquirizia. Stavo sentendo. Allora, per te. Sì. Per la mia amica socia, la Denari di Cuore Denari. Esattamente. Il dottor Avoledo sì, preparerà una ricettina al volo. Tu dimmi che cosa vuoi e il dottor Avoledo ti darà. Devo spiegare i miei problemi, che Avoledo conosce già, perché tanto io l'ho già raccontati. la pesantezza di gambe, il gonfiore di gambe, che cosa, me le devo tagliare oppure fare che cosa? Io che sono una sportiva, cammino, non sono una pigra, perché? Perché sarebbe da investigare questa cosa, però ci sono delle piante, ce l'avevamo prima, per esempio come la centella o anche le piante felebotoniche, che possono essere utili sia in tisana sia in altre formulazioni più pratiche, magari per chi ha poco tempo. Posso come mettere te. Tanto miele nella tisana? Oh, no, tanto mia. Miele, no, magari un po' meno. Poco. E tra l'altro il miele è fantastico, straordinario. Sì, ha anche degli effetti balsamici, alcuni tipi di miele sono molto utili. Io sono una fan del miele. Prendete però il miele, quello grezzo, integrale, molto buono, e non quelle cose che spesso si trovano al supermercato che del miele hanno solo il nome. No, io compro montagna, solitamente. Allora un'altra cosa. A me lo porta Laura. Molto bene. Il miele per noi è diventato il miele di Laura. Allora adesso che sono la tua socia dovrà portarlo anche a me. Perfetto. Allora, che cosa raccontiamo di noi? Raccontiamo che dobbiamo fare delle precisazioni. Lunedì parte il nuovo palinsesto di Radio 24 con tante novità, per cui parte anche la nuova trasmissione di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani, che si chiama Cuore Denari, ma la nostra parte il 7 ottobre, perché le donne si fanno aspettare. Certamente, ecco. E per questa problematica non c'è nessuna tisana utile nata per risolverla, e quindi noi faremo, no? Parleremo dei temi di cui si parla tanto in casa, sì, in famiglia, tra gli amici, ma cioè si parla di soldi e possiamo di salute. Lanciare un appello, sosteneteci. Esatto. Due donne nel palinsesto di Radio 24. No, ma soprattutto suggeriteci anche i temi che vorreste che affrontassimo appunto nelle prossime puntate, per cui salute e soldi. Che bello. A Voledo. Ecco, lei sarà molto spesso ospite nostro. Molto volentieri. E magari ci dà una tisana per tirare su anche qualche soldino. Andrea Ribaldone è tornato con noi. Fermati che adesso Andrea ci stupirà. Ciao Andrea. Ciao Nico. Executive Chef Italy Tokyo, cuoco stellato, autore di Controsoffritto, che vi invito ad andare a vedere sulle nostre pagine del programma. Andrea, noi abbiamo messo anche erbe insospettabili, ma ci sono delle erbe che noi usiamo solamente per magari preparare le tisane e che possono invece entrare anche in cucina, in alcuni piatti. Sì, allora Nico, è il caso della camomilla, che tutti usano solo per fare la tisana la sera, tranquillizzarsi, dormire. Io la uso in cucina per fare ad esempio un dessert. Un dessert alla camomilla, fate un gelato. Hai visto? Sì, vai. Semplice, fate un gelato semplice, fate il classico gelato alla crema, sì, con o senza uovo, quindi o fior di latte o crema classica. Prima di farlo andare in gelatiera, fate un'infusione, quando avete scaldato il latte, con i fiori della camomilla. Lasciate una decina di minuti, togliete, filtrate e fate il gelato. Verrà un gelato veramente strepitoso. Mettete anche un pochettino di buccia di limone. In quel modo avrete questa alternanza di dolce e acido che è davvero, davvero buona. Quindi per chi fa il gelato a casa, questa è la ricetta di Andrea Ribaldone. Vero Andrea? Bene, ti bene, sento bene. Più. Sì, sì, questo è per il gelato fatto a casa, quindi fate la base o alla crema o il classico fior di latte e lasciate in infusione nel latte caldo la camomilla e poi lo fate girare normalmente in gelatiera. Ti faremo sapere, grazie ad Andrea Ribaldone, seguitelo nei suoi video di Controsoffritto sulla pagina di Essere Benessere, che diventerà poi di Cuore Denari, ma rimarrà ancora il nostro appuntamento Daily Lab con naturalmente le incursioni della mia compagna Denari. Deborah, io ti saluto e ti ringrazio. Io ci sentiamo tra pochissimo con Salva Danaio, l'ultima puntata, però ti ospiterò fra qualche minuto, quindi va bene, torna a vengo anch'io a dirmi le vostre. Intanto, dottora Voledo, grazie per essere stato grazie con a voi. Noi. Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi come sempre in redazione. Per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a lunedì, perché io aspetterò Deborah e per partire con lei con Cuore Denari il 7 di ottobre. Buona giornata e buona Deborah, tra poco. Essere e benessere.